violenza, il varco niega il biglier. La penitenza. Su, su, su, schento lo spirante, spesse rodente, tormento stremato, spavento animato, su, parti, su, fuggi, lontano di me. Parti, fuggi, tormento, spavento, tormento, spietato, spavento animato, su, parti, su, fuggi, lontano da me. Parti, fuggi, lontano da me. Felice Maria, al ciel ribella, ingrata al tuo Signor, te cessa ormai di stampar col tuo pietra l'acium certo di ascive catè, orme di servitude in queste arene. E non t'avvedi, o stolta, che di cucito entro l'oscuro regno. Precipita al tuo pie, senza ritegno. La sua nome, amor vendato, la sua ben di faccio tal basi a tuo ciglio, nel mio errore il suo periglio, con tal velo il coronò, con tal velo il coronò. O Dio, che non consuma e affligge, che non estrugge e crucia, che lacera ne uccide, l'inumano ritorno miri. O Dio, dunque dell'antro ardio, ove son gemmi pianti, son molniglia e lamenti, son tala mille fiamme, l'inumano ricorno miri. Oh Dio, più Pianto l'alma ria, van Signore, ti desidero.